L'orso e due compari, da Favole, dicendo La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. Ad un vicin mercato due compari, a corto di denari, vendettero d'un grande orso la pelle, d'un orso ben inteso che non avevano ucciso ancor né preso. A sentirli degli orsi era il campione, e la pelle soltanto una fortuna da foderar non una, ma due zimarre contro il più ribelle freddo della stagione. Prometton che in due dì saranno pronti la pelle a consegnar, non altrimenti che la pelle trattassero d'un fico. E senza fare i conti con l'orso vanno in traccia dell'amico. Vanno ed ecco che subito si affaccia la belva che galoppa e mostra i denti. Contratto a Dio, non è quello il momento di fare affari con la bestiaccia, ma di scappar, e scappan come il vento. L'uno svelto s'arrampica su un albero, l'altro si butta in terra con la faccia e fa il morto, non fiata, avendo udito che l'orso, con chi puzza di cadavere, di rato si è mostrato inferocito. «Puzza da morto, andiamo!» disse l'orso, e nel bosco si rintana. Un degli amici scende allor dal ramo e con l'altro di cuore si congratula che ancor la sia passata così piana. E non tarde la pelle anche discorso quando il muso all'orecchio avvicinò? «No, no», ma disse, «se non ho frainteso, che non bisogna vendere dell'orso la pelle mai prima d'averlo preso». Fine della favola «L'orso e due compari». Questa registrazione è di dominio pubblico.